C'è qualcuno sul 23? Attenzione al canale 23. Attenzione al canale 10. Parla. Attenzione al canale 23. C'è qualcuno sul 23? Ok. Ma buonasera, buongiorno, anzi buonasera. Io qua buon Natale a mai è passato una donna. Fa buon Natale. Se ci vede ancora la cuffia. E allora sto a posto? Niente inutile. Uia uia, io ci vedo a fare dai. Lo so, è un caso. Vabbè, ti posso parlare di un tocco del gasolio. Lascia le volte. Ho capito, Mari. Per il caso è venuto, è venuto. In ritardo, ma già è venuto. Quanto dite caricate? 500, non mi dite. 700 me ne arriva, va tutto un mese. Dobbiamo venire saldi. Lascia le volte. Quando ce ne sta, 500? 700. Non dobbiamo bene. Ok. E tu cosa vuoi? Buon signor Tito, buonasera. Lascia le voglio, tutto voi ce lo darà qui. Io se mi posso fare che cosa, Ti faccio l'antenna, la nobile. Che buon gardi. Vero, signor Mai? Non ho riconosciuto un buonasera, ben alzato, avanti. Stasera, di solito parlo dalla macchina. Stasera ho toccato il baracchino a casa con quella... con l'antenna sul balcone. E ti c'è a vedere chi c'è là. Non ho capito lui, ma chi è? Scusa, cosa ci dormi di oggi? Non mi sta sentendo, l'altro giorno la macchina si chiude forte da casa, non mi senti. Guarda, c'ho l'orecchio, non sono io l'orecchio, non ho capito chi sei, scusa. Che prende il po'? Oh, dillo, lo so, sono arrabbiegiami. Certo, non ti fai fare da stasera, Diglielo. La macchina mi ha detto, ti sento forte, adesso da casa che l'antenna è più grande, non mi sento. E come stai, Carlosa? Ah, Bruno, no, lo so se c'è una relazione diversa. Bruno, uragano. Ma dove sei, su Alcuerci, no? Stai salendo, sì? No, stasera sono a casa, me la sto usando un altro apparecchio. No, perché sono abituato a sentirti sempre 9:10, 9:15, da su. E sei salito, sì, adesso, per quello capito, è un po' difficoltoso a riconoscere l'innovazione. Avanti. Sono stazionato in questa antenna, è quella antenna piccolina che c'è sul balcone, quella... non mi ha messo più un altro di giamma, comunque. Non so, dove stiamo però, la macchina è più forte di questa antenna da casa, no? Andiamo bene, e comunque non lo so, sono stazionato in questo barattino. Ma come stai arrivando a 9:05 stai arrivando? Da me. Poi da Edo si arriva in Santiago sì, perché c'è una zona forse che c'è più ombra. È per quello. Signor Marì, se pagisci che non lo ricevi bene. No, ce l'ho detto, abituato a sentire 9:10, 9:15, anche 9:20 quando parcheggio la zona, una zona alta. E per quello non avevo riconosciuto bene la modulazione. Già la modulazione non mi piace. La sento dentro un barattolino, la sento. Un po', anzi, come una patata la sento veramente. Come una patata. Comunque, fate conoscere, già va bene, dai, me lo metto, mi conosciuto. Ho letto un paio di cose, ho letto di Pazzola. Chi è morto? Ho letto sui giornali, Pazzola, capito? Davvero, signor Piero, mettiamo di fronte, io sono due giorni che non vedo Antonello, vedo il furgone fermo, ma lui non ho più contratto, e il padre di Antonello di Costanzo, lui può fare. E noi abitiamo di fronte, signor Piero è un po' che non lo vedevo, stava male, perché mi trova l'ossigeno sempre appresso, e non si sa quando è morto. Guarda, sinceramente non so se l'ho letto oggi o ieri. Capito? Oggi o ieri, adesso non me lo ricordo, sono stato un po' mezzo svegliato, questo per io sono un po' mezzo incasinato e la testa sta andando a rotoli. Non ricordo se oggi o ieri ho cavolo, io ho comprato anche il giornale stamattina, non ho guardato la pagina dei morti, va a Napoli, magari è morto ieri, c'è la funerale di oggi, perché ho notato una cosa, che Furgone e Antonella è due giorni fermo, perché abitando di fronte sono abituato a vederlo andando e tornando. E ieri ho visto anche la Maria Vittoria, la moglie, non mi ha detto niente. E magari non ti ha saluto, rispetto magari avrebbe detto, la gente è convinta che tutti quanti, aspetta lo scambio, la gente è convinta che tutti quanti leggono il giornale, no? E ragazzi, i giornali sono tutti come cose. Io leggo il giornale raramente, quando me lo mando sulle strade, capito? Se no io non mi occupare di giornale. E non lo so, la prima cosa che guardo è chi c'è ancora vivo, no? La cosa, io stamattina ho comprato il giornale, ero con la macchina di Antonella, e siccome era buio quando sono uscito, alle 7 era ancora buio, il giornale l'ho preso, ho dato un'occhiata così veloce, però non si vedeva bene, e l'ho lasciato in macchina, infatti è diventato un'amica, il giornale non si macchina più, non ho guardato, io la prima cosa che faccio tutti i giorni è andare due multe, chiaro. Ieri e oggi non ho già guardato, dove? Purtroppo. Se mi prendi e ritorno subito che mi ha chiamato il posto, prima. Così guardo il giornale mio, dai. Se ne riprendi. Ok. Se non l'ha guardato vuol dire che non ti interessava anche. Ed è così. Quando non lo guardi, te lo verranno a dire gli altri. Guarda che un attimino che mi ha lasciato campare, lo trovo subito. Sono tornato. Sì, se mi rodi. Non sai che è così, che non l'ha baito. Ma guarda, io sembra una cosa strana, no? La prima cosa, la risposta, quando vedo il giornale, guardo la pagina di voi. Io stamattina, no? Che, infatti ieri, l'ho aperto il giornale, ero in macchina, la macchina ancora da buio, alle 6:30, sono stato a prendere il giornale. Però non l'ho portato su, perché se lo portavo a casa, lo guardavo, e gli ho detto, vabbè, la mia moglie sta facendo, allora il giornale se lo portato su lì. E vabbè, ho finito un attimo la sistemata, ma adesso che anche lei non l'ha visto, se no, non lo conosco. E mi dispiace, porca miseria, lo conoscevo la vita. Mi prendo visto, mi prendo io. Oggi ho 24, se mi sbaglio, era oggi alle 3:30. Oggi è 3:30, dai, dai. Se non sapevo niente, tanto di male. Oh, porca miseria. Mi dispiace, ma anche non ci aveva pensato lui, ma non so questa lotta. Questo io lo avevo sentito ultimamente, andiamo in giro con la popola di un figlio, per cui. Era grandetto l'età a me, era spesso una novantina d'anni. È un casotto, purtroppo qualcuno non lo sa, è un macello. Ohia. Guarda, io c'ho mia suocera, stiamo saltando ogni giorno. Ti faccio campagna a casa sua, se ne vuoi oggi lavare fuori di testa, non vuole prendere neanche le pastiglie che gli ho dato dall'ospedale. Adesso domani dovrebbe venire il medico, l'infermiere, il medico per mettere la febbre, a fare gli accordi del cortisone, la morfina per i dolori, e a dormire la croce e lui non vuole prendere nulla. Mi ha detto lasciatemi stare così, perché se sta andando, si ne andendi, si sta facendo consumare da sola, si sta consumando da sola. E vabbè, cambiamo ragione, va, avanti di te. Purtroppo non arriviamo al febbraio. Tanto è tutto di andassini e cose. Ecco cosa è. Purtroppo è così. Si sta lasciando andare e basta, non ha più voglia. Non ha più voglia, uno ne danno. Due pastiglie, ne guglia, gli ha messo solo i cerotti, ma dopo tanto quei cerotti che ti calma un po' il dolore, ma lui ha dolori al croce che c'ha da fare, c'era al pancreas, dolori, il dottore si deve alterare, sono dolori al croce. E da un piglia nuda, per non fare spaventare i figli, capito? E sempre la borsa calda, le stavano mettendo la borsa calda, capito? Però lui ha dolori. E vabbè, che volevo più forza. Avanti tu. Dappertutto c'è, cioè, a casa non abbiamo mio nipote che ha 60 anni. Figlio Vittorio, vedi? Figlio Vittorio, ha fatto 4-5 interventi già. Tumore. sta facendo la chemio, ma ci hanno dato poca speranza, non c'è niente da fare. Già 6-7 mesi entrando in un ospedale, mi hanno operato, è tutto pieno di tubi, è alimentato con tubi cini sulla stomaco, sulla pancia, dappertutto. Non parlano, non fa casino. Casino perché la mente è sana e lui sta soffrendo molto. Sta facendo la chemio, non c'è niente da fare. Purtroppo siamo in passaggio lui, siamo in passaggio. Per carità, me non c'è uno, io non c'ho uno pensare, me non pensarsi, per carità, sino guai, avanti qua. Purtroppo è così, quando ci arriva una volta dai, fai tutti gli acciacchi vai, purtroppo, e tiri avanti così, piano piano. Oh Giulia. Il fatto è che lasciamo stare l'estate, vabbè, questa è diciamo, una persona grande, la sua c'è grandezza, grazie a Dio, e perché non si augura nessuno, non si augura nessuno, però diciamo che lui in ospedale l'ha già visto già da quando c'era 35 anni, che gli aveva portato già una gamba, a quell'età dunque la chemio la faceva a Cagliari, che sa in quel periodo non lo faceva, quel periodo, quindi c'ha diciamo, 84 anni, diciamo, va, quindi chemio. Dunque l'ospedale l'ha visto, ha visto Cagliari e poi alla fine ha visto Bologna, Rizzoli. Perché se andava a Bologna la gamba non era rimasta, invece qui a tagliare però, c'è capito? A tagliare, se non viene tagliato un gruppo invece, dice il dottore, dice di tagliare l'anca. E mi dava che la gamba si poteva anche salvare, capito? Dunque lui è abituato agli ospedali e oggi non vuole prendere nulla, né pastiglie né niente. Non è proprio vero. Purtroppo sentono via anche i ragazzi giovani, le persone giovani, figurati, dice quel male come voi viene, si fa fare, con tutta quella roba da mangiare, stiamo mangiando, che arriva fuori, sarebbe inquinata, non parliamo del vaccino, perché il vaccino è già un altro casino che hanno combinato, avanti Bruno. Si è detto male perché tu mi arrivi a Santiago sempre, la propagazione arriva a Santiago Rosso, riesce a coprirti, quasi mi preso nuda. Non ho capito molto, chiedo scusa, però l'ha detto. Ma ha detto che la propagazione ti sta coprendo, ti copre. Ha capito nulla, non ha capito. Perché mi sta arrivando come una patata, capito? Noi i segnali del sette sta aumentando, ma la moderazione lo sembra come una patata, capito? Come una patata, boh, sto cercando di regolarlo ma non riesco a regolarlo, non va, boh. Questa è una macchina, mi avevano venduto ma non esige, è un Intec, ma non la serve, c'è anche il microfono che non la serve, mi avevano dato anche un proprio piccato, ma non va bene, e adesso mi è rimasto l'altro parecchio, qua, questo l'ho voluto provare ma... Arriva anche basso, purtroppo non c'è un casotto, è un casotto. Vabbè, sta dicendo, è tuo fratello sempre giù, sempre il campagnolo. Tutela, ma io sento male io perché la propagazione ma è movimento in macchina signor o non sei fermo a casa sono con quell'antenna sul balcone il signore adesso il segnale 7 poc'anzi ha aumentato e si è sceso pensavo in macchina se sta scendendo lo smette allora si tocca purtroppo è uscito non ti vorremmo va no. Tu sei il 7, se no che mi arrivi 9 sì con me. A mettere questa antenna adesso carica stazionaria, capito? Io ho comprato anche un amico CB, mi ha venduto anche un strumento per le stazionarie, Rosato. Ma non sono riuscito a farlo funzionare, so che non funziona neanche lui. Per cui non ho mai potuto controllare le stazionarie a questa antenna, non so neanche come è messa, capito? Non avevate questa antenna anche in mezzo a un corso. Ma a me mi stai arrivando Signore, come si fa a da Morino che c'è qualche palazzo davanti e non riesce a arrivare bene da lui? Ecco cos'è. Vabbè, io sono un palazzo interarmato altissimo qua, io sono... sono al secondo piano e sopra ci sono altri due piani, e l'antenna è rivolta dalla parte opposta, l'antenna è rivolta verso sotto, capito? Forse a ciò ci arrivi più bene. Sì. Vabbè, devo dire che c'è il palazzo che ti fa ombra, ti fa, e per quello non gli arrivi bene a Maria. No, meglio così che nulla. Vediamo cosa c'è, come si sta arrivando lui adesso. Apposto in cantina, in garage, dove la prima, non so, baracchino, e quando ne voglio sono la macchina. Soltanto la stasera volevo entrare, ma la macchina, stava parcheggiata in macchina, il motore acceso, riscaldamento acceso, è un casino, c'è freddo, capito? Signor gioco, signor Marì, non riesce a passare, no, con Bruno, è più forte di te, da oggi, avanti che ti faccio passare io, avanti. E vai. Con la testa, il crocello la testa, tu. Il crocello la testa. Siamo un casotto, c'è un'innovazione sotto di lui, capito? Tipo uno splatter. E per quello non capisco nulla altre volte. Mi stai contando, senti? Adesso sì, a meno che ci portiamo di qualche canale, poi non lo so. Andiamo almeno la frequenza, scendiamo un pochino, no? Ma tanto sono tutti gli stessi i canali, sono tutti bene, Joe, in qualsiasi canale che vai sono tutti pieni di propagazione. E per quello lo sento, sento più la preparazione da lì, per quello lo sento meglio le patate, capito? Lo sento meglio le patate, e per quello non capisco un tubo. Tutto qui, allora tutto. Sì, tanto già nello sul canale è ancora a Biggio, quindi faccio questo. Altri canali che sono più forti. Adesso vabbè, a te già ascolta, non vi qui, cioè la radio è sempre la solita, sempre la solita, ma lui lo sente insieme alla, un po' di la preparazione e confondo la migrazione tra uno e l'altro, capito? Tutto qua, poi il segnale sta da 7 se ne va a 9, da 9 se ne va a 6, è come si è in macchina camminando, capito? Tutto qua, bene, nera, avanti blu. Ok, e allora se ti ho sentito, ma a momenti preparazione troppo alta. Ciao, questo è il dottore Gio Maria, non si è sentito. Hai preso questo qua, Italia, guarda, sta... Tone, guarda, si sta chiamando questo qua. Ah, io non raccordo, l'ho accorto basso all'inizio. Ma aspetta che abbasso un gusto. Attenzione, mi sta chiamando l'Italia, avanti. Aspetta che ti passo il mio collega, Tone, guarda, ti dice, il mio collega. Poi non l'accorto nemmeno, io, non lo basso a me che non l'accorto. Portogruaro è Marì, Portogruaro. Già adesso ti ho sentito, poco fa non ti ascoltavo, ma adesso sì. Portogruaro, noi siamo da Sassari, la zona di Sassari. Questa è l'antenna, parla, che cazzo. Ma mi sa che la propagazione se n'è andata. Mi stava arrivando un salto da 9 poc'anzi. Pensiamo se ascolti il Sassari, avanti, avanti blu. Già c'è la propagazione. C'è stato un altro che arriva più di 9 lì. Blu, c'è stato un inviato, non avevo capito il tubo. Chi è l'attore questo? No, io non lo sento e non lo sento. Appena appena lo sento. A volte è più forte, a volte se con la barra mobile in camion passa in zone che non lo senti. Non c'è un po' di preparazione, non c'è un schiatto. E per quello non riesco a capire un tubo. Va bene, avanti, Bruno. stava dicendo che si trova in barra mobile in camion, forse con le tizio, poco fa mi è arrivato forza. Ho capito, io ho un casetto. C'è un casotto, preparazione, poi sovrapposizione e succede un casotto. Piange nessuno. Poi, con chi sei? Il cane è Bruno. Già uscito sei a portare il cane fuori? No, io ho fatto più tardi. Siamo rientrati poco fa, ero in campagna. Per cui oggi, più tardi, sì. Cioè, siamo tutti in mangiare in giro, siamo andati a Patamona, in mangiare. Alle due siamo tornati qui. E vabbè, anche lui è giusto, ha bisogno di uscire, niente da dire, purtroppo anche lui ha le sue esigenze e così via, e su che andiamo, avanti tu. Sì, Genzo, quando ce la devi portare, portalo, così passeggi. Però dove era di sua zona, a Trattamone? Non ho capito, ma io scendo tutti i giorni al mare, in giro, anche in anche quando stavo per i fatti miei, no? Mi dico che non è che mi fai noi scendi, sei pittorizzato. Ma Tavaiano si trova da un altro, e allora dico io, ora presto, brinca in macchina. E sono stato lo stesso, sto in giro. Oggi è una bellissima giornata a Platamona, ieri non se ne famiglia. Poi sapete che è entrata la sua bassona. Avanti, signor Maruele. Buonasera a tutti. Da questa parte Zampa di Gallo. Zampa di Gallo. Buonasera, ben alzato. Tutto a voi, a posto? Sì, Mari, buonasera a tutti. Ciao, Tore. L'altro un amico non lo ricordo. Comunque, una voce già sentita. Vai tutto. In macchina sei, Manuel? No, a casa, in macchina. A casa, Santa Ivanova, non perché mi sono visto che sei morto. Santa Ivanova è un gocciolo di Super 5. L'amico è un uragano. Avanti, Bruno, si è ascoltato Manuele. Finalmente qualcuno che arriva bene, diciamo, qualcuno che arriva discretamente, porca miseria. No, perché Tore lo sente, ma a momenti alla voce, all'orario di... Ma Marino, la propagazione è abbastanza. Ma io spegnete il baracchini che è arrivato il padrone della frequenza. E la ora, buonasera signor Gianni, compagnia di Tore, Bruno e Emanuele, avanti già. Ciao Marino, ciao Tore, ciao Bruno, Emanuele e via dicendo. Avanti Bruno, avanti, dove sei? Oh, chi è questo qua, che sento sul fondo? Oh, Tore, chi è? Non lo sento. Non lo ascolti, ciao, non ti ascoltano. Può dire che non sei il vostro che la frequenta. Ma è da Pinocchio, non li va di nuda. Ma secondo me ha tolto un lineare, allora per quello che arriva sul fondo. Io non ne ho lineare, non ne uso più da secco. Pinocchio della vendetta. Non ne ho, ti faccio venire a casa, ti faccio vedere la mia stazione, non ne uso il mio. C'è gli apparecchi e basta, gli apparecchi normali. È stato che mi faccio di tutti i canali. E prendi Tore. Ma cosa vuoi che dica? Guarda bene. Signor Gian, non ti sente, non ha detto. Purtroppo è così, non sei più forte. Ti sei abbassato un po' carino. E adesso gli cresce il naso a Bruno. A Vicciaia gli cresce il naso. Avanti, Manuel. Dai, ne approfitto per chiudere che domani me ne levo alta alle 5. Ciao Tore, sono entrato così tanto per salutare. Ciao Tore, ciao Marino e Uragano. Dai, ce la riascoltiamo tutta le migliori. Buona, questa è Grecca. Vai tutto. Manuele, ci risentiamo alle prossime, ok, avanti Marino. Se ti vuoi dire una cosa, a me vuoi lavorare, che c'è nostalgia di lavoro. Vai, goditi la pensione Marino, lascia perdere, goditi la pensione fino a 100 anni. Grazie Manuele, ci sentiamo domani se concilio, avanti prima per Manuele. Ciao Manuele. Ma in pensione si è andato, Mario? Sì, Marino in pensione. Anche lui fa parte di essere pensionato. A chi te lo sei pensionato? Sei pensionato, lui è incoglionito, burro. Dai, se lo ti sottovalutare, dai. Allora, ma te l'immagini già che c'è il tuo ragazzo? Dopo, se ne mette una tromba d'aria. Se mi metteva la tromba d'aria bisogna stare attento. Da un ragazzo ti mette la tromba d'aria. Ma senti il tuo bru. Sì, a proposito di tromba d'aria, l'altro giorno l'ho fatta ora, l'altra mattina, ma un paio di giorni fa. Lontananza, la lontananza verso la zona, sotto la Corsica, quella zona sotto verso. La lontananza, ho visto una tromba d'aria, si è alzata, è diventato tutto nero perché la giornata di sera, però fatto. Ho visto la sorgente di mulinello in acqua. E poi dopo un paio di minuti si è spostato e si è fatto il fatto. Scusate, lo tengo io sul treno per chiudere, mi sta chiamando mio nipote. Ciao Bruno, mi hai sentito, saluto la signora, ciao Tore, ciao Gianni, saluto le scolpene per me, QRT, Tore riprendi, a domani se coincide, dai. Ciao signor Mai, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao. Avanti già, ti so cosa rende pure io subito. Altri 5 minuti e poi mi andiamo. Avanti. Con la radio mi avete fatto scaldare oggi. Ciao Marino, ci sentiamo, dai. Grazie per il piccolo QSO. Avanti Bruno, dove sei? Attaccato a casa, passo da sotto la macchina, mi sono comandato oggi. Da casa con quell'antenna boomerang che cavolo è. Ma non so se è stato un aereo, perché ne sono fatto, mi sento quello più fatto dalla macchina. Qua si fa uno scalo. Vabbè, ma l'idea là si è proprio vicino, la mia antenna ti prende. Ma dove l'hai messa? Sul tetto? No, sul balcone. Sul tetto, sul tetto. Adesso io me lo devo aspettare, devo chiudere. Ci sentiamo. Ciao. Non rimaniamo che noi. Io ho ancora 5 minuti in bus, e poi mi devo pigliare i bacchini di bus. Ma tu perché a orario le prendi? Io le prendo quando mangio. Prima di mangiare le prendo e poi mangio su. Non ne ho di orario. Tu a orario le prendi? Questo sì, questo del cuore sì, le prendo a orario, le prendo anche la mattina, è così, prendo a orario queste qua, le altre no, le altre le ho dopo il mangiato e va bene, ma queste le devo prendere a orario. Quelle del cuore per cosa le stai prendendo, cosa c'hai, scompenso cardia? No, ci avevo... Dove partire, ma la dottoressa del policlinico ha detto che c'avevo come si chiama accelerati, i battiti accelerati, dato la pastiglia per il cuore e qua per mobilizzare il sangue. No, invece io avevo un'aritmia cardiaca, adesso si stanno prendendo le pastiglie, ma queste pastiglie mi facevano venire proprio questo battito cardiaco accelerato. Allora basta, non vado più, ci la mille luci, quando gremo metti in buia. No, ma poi mi sono stato bene, se non prendo le pastiglie sto bene, se prendo queste pastiglie che mi ha dato mi prende attacchi cardiaci. Qualcosina, ma va e viene continuamente. Già sopra noi. Purtroppo ma ho dovuto imbrando e le sto prendendo e ho visto che i battiti sono rallentati e sto bene, quindi se potete andare avanti così e anche l'ansia mi te lo fa, anche l'ansia magari se mi fa pericolosa e ti prende così, ti prende quando sei ansioso. Sì, molto l'ansia mi veniva anche. Ma ha chiesto se mi veniva ansia e io ho detto di sì. E poi quando sto prendendo queste pastiglie l'ansia non mi è giunta più. Cazzo, oggi ho telefonato al CAP. come mi avevano detto, di telefonare prima per vedere se era pronto. Dice, invece non rispondevano. Poi alla fine hanno risposto, ha detto sì sì, già pronto, venga a ritirarlo lunedì. Aveva detto che allora dura, questa è la terza volta. E quello la pecca di sta roba qua. Flattera, no? FM no, ma in AM Dio che attenzione, in canale 23 c'è propagazione. Qua siamo in Sardegna, dove siete voi? Oh, sì, ero fuori per fuori troppo. Mi stiamo splatterando. Sono prove, che salta, prove su prove. E ti senti a Gorobre arrivato? Vabbè noi, vabbè già dai, ci sentiamo alle prossime, ok, che fa bene che battimi, Biglio, ci risentiamo alle prossime. Ehi, dai, ci sentiamo molto, dai, fidati queste pasticche, pasticcami. Buona serata, dai, buona continuazione, se ci può pescare giù. E ok, ciao già, stammi bene. Ciao, ciao. Attenzione, canale 23, ascoltate l'isola sarda, cambio. Avanti qua sul 23, vediamo se c'è qualcuno in ascolto. K, la città di Sassari, nord Sardegna, l'operatore è doppio rum, avanti. Nord Italia, provincia di Pordenone, ti ascolto, vai, se ascolti l'operatore Marco e questo è Stefano. Ciao Marco, ciao Stefano da Pordenone, questa è la città di Sassari, non so come mi stai ascoltando perché sto uscendo con 5 watt, dai. Quest'ultimo passaggio fica, ho fatto un po' fatica, vediamo se riesco a sentirti meglio, vediamo se anche il mio collega qua ti copia, vai Stefano. K Treviso, ti ascolto, ma sì, no, ma ti ascolto, dai, ti ascolto, capisco cosa dici. Di Sassari per il nuovo, per rinnovare il nominativo che non mi ricordo. Io sono doppio rum, operatore Gianni, Gianni doppio rum dalla città di Sassari. Non sono riuscito a capire. Aspetta che attacco l'altro apparecchio che c'ha più qua. Vediamo un po' se mi senti. Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Vediamo un po'. No, niente, l'ho perso. Stefano, tu mi ascolti? No, ma sento le valvole, ascolti, mi muovono le valvole. Non so, non riesco, non carica, non so perché. Aspetta un attimo perché non carica. Provo ad andare un attimo in FM. Attenzione, Pordenone, se ascolti l'isola della Sardegna, cambio. Gianni? Chi è che mi sta chiamando? Io sto chiamando, sono andato già. E la preparazione va e torna, capito? È un casetto. Siamo in FM, vai, vieni in FM. Allora, 9, quasi 9.29 sta arrivando, dello spalatto. E questo è un altro apparecchio che sto usando, questo qui è un apparecchio che costava 700.000 lire quando l'ho comprato. E già va bene, ottimo, ottimo. E la preparazione va e torna, adesso non sento più nessuno, sono qualche importante, vedo ogni tanto e basta. Prova a andare in FM, Mari. Come? Prova in FM, che sono lì loro. Già, ti chiedo scusa, oggi sono le orecchie che non stanno pensando bene, non ho capito chi è. Ho detto, passa in FM, che loro erano lì in FM, li sentivo perfetti. Ma stai in FM, lo sai? Cazzo.